errori di 10 uomini di Dio. Mi hanno sempre attratto gli errori di uomini e donne famose. Difficile capire il perché, ma molto probabilmente è per vederli più vicini a me e per sentirmi anche normale, quando vengo meno ai miei doveri. Infatti, in un qualche modo mi consola che un grande cantante ammirato in tutto il mondo commetta un'evidente stonatura durante la rappresentazione di un'importante opera, o che un famoso sportivo per un errore da lui commesso perde il premio. Non sono certamente felice per il loro insuccesso, ma alla vista degli sbagli di grandi personalità i miei errori mi diventano più accettabili e comprensibili, e questo mi rincuora certamente. E anche in quest'ottica che leggo la parola di Dio, in essa si trovano le narrazioni riguardanti la vita di uomini aventi carismi tali da farmi sentire un verme. Ma quando tali racconti ne palesano anche gli errori leggendo, sono incoraggiato, nonostante le mie mancanze, a procedere nella corsa verso il premio che Dio offre a coloro che amano Cristo Gesù. Così, ho pensato di riflettere sulla vita di 10 uomini grandemente usati da Dio e che hanno commesso degli errori, prima per non seguirne in questo l'esempio, poi per evitare di fare di questi uomini degli inutili miti. 1. Abramo, l'uomo di fede che ha mancato di fede. Abramo è certamente con Mosè e Davide uno degli uomini più citati e conosciuti della Scrittura. Noto anche ad altri religiosi, come i musulmani. Nella Bibbia Abramo viene chiamato il padre di tutti quelli che pongono fede in Dio, oppure anche l'amico di Dio, titolo e posizione che tutti vorremmo avere. Eppure, quando si trattò di salvare la propria vita, questo campione di fede, per 2 volte, mentì in merito alla moglie, dicendo che era sua sorella. Così troviamo scritto il primo episodio nel libro della Genesi. Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, Abramo disse a Sarai sua moglie: «Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto, così avverrà che, quando gli egiziani ti vedranno, diranno: Costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Ti prego, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la mia vita sia salva per amor tuo». 12.1.1.13. Questa debolezza di Abramo, mostrata nel tentativo di salvarsi la vita mediante l'uso di una menzogna piuttosto che mettere con fede nelle mani di Dio l'intera situazione, pone in evidenza una realtà dinanzi alla quale non possiamo chiudere gli occhi. A volte si può venire a mancare proprio nelle virtù che si possiedono. Il padre della fede ha mancato di fede. E questo suo errore è certamente di incoraggiamento per noi riguardo ai momenti nei quali non siamo sempre pronti a glorificare Dio mediante la fede. In merito alla menzogna di Abramo, ritengo opportuno fare una precisazione per capire se mentire sia sempre sbagliato oppure no. Una cosa è certa: la menzogna è una delle 7 cose che l'Eterno odia, Proverbi 6 e 17. Forse per questo fin da piccoli ci è sempre stato insegnato di non dire bugie. Per quanto mi concerne, però, nel mettere quest'ordine a confronto con la realtà della vita, esso mi recava non pochi problemi. Possibile che Dio avesse proibito la menzogna in senso assoluto? La mia sorpresa fu grande quando, diventato figlio di Dio, mi misi a leggere la Scrittura. Non ci volle molto per rendermi conto di come un certo tipo di menzogna non solo era lecita e praticata da uomini dotati di un santo timore del Creatore, ma che essa fosse stata benedetta anche da Dio. Nel libro dell'Esodo leggiamo che il faraone, per paura che il popolo di Israele diventasse troppo potente, ordinò alle levatrici di uccidere tutti i maschi, ma le levatrici raccontano una menzogna al faraone, e per questo furono benedette dall'Eterno. La vita di Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio per la sua sincerità, è spesso caratterizzata dalla menzogna. Infatti lo si vede mentire davanti al sacerdote Ahimelech, davanti al re Achis, presso il quale si era rifugiato, e perfino stringere un accordo con Jonathan, il quale non esiterà a mentire per salvare l'amico. Anche il profeta Geremia mente più volte per poter salvare la sua vita. Che dire poi della prostituta di nome Rahab che mente per salvare la vita dei due informatori mandati da Giosuè a spiare il paese di Canaan, la quale per questa azione è elencata fra i grandi eroi della fede al capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Di fronte a questi episodi, non trovando armonia tra ciò che comprendevo nella scrittura e l'insegnamento ricevuto, mi rendevo conto che qualcosa mi sfuggiva, e rileggendo il nono comandamento ho notato che l'ordine dell'Eterno non riguarda il mentire. Non proferirai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Balza all'occhio che l'Eterno stia comandando di non attestare o dire o pronunciare il falso contro il prossimo per danneggiarlo. Dagli esempi citati nella parola di Dio emerge chiara una verità. La menzogna è ammessa per salvare la propria vita come quella altrui, e per schierarsi a favore del Dio rivelato nelle scritture. Tornando a Abramo, egli ha mentito, per paura di essere ucciso. Si tratta quindi di una mancanza di fede, e non tanto di trasgressione ad un comandamento. 2. Mosè, l'uomo mansueto che ha mancato di mansuetudine. Spesso la parola di Dio traccia in poche righe il carattere di un uomo. Nel libro dei Numeri leggiamo che Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. 12.3. Eppure, venne il giorno che l'uomo più mansueto della terra perse la pazienza a causa del popolo di Israele. Ecco la descrizione riportata dal salmista in merito all'episodio. Essi lo provocarono ancora presso le acque di Meriba, e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono lo spirito di Mosè, ed egli parlò avventatamente con le sue labbra. Salmo 106.3-233. A tutti capita di sbagliare, e soprattutto a tutti capita di perdere la pazienza. L'Eterno conosce questa nostra debolezza, ma l'Eterno non perdonò quest'errore a Mosè, che di conseguenza non poté entrare nella terra promessa. Avere un carisma è un dono di Dio che è di certo bello possedere, ma chi ne è dotato è pure maggiormente responsabile rispetto ad altri. Se Mosè ha portato le conseguenze di un solo errore commesso, quanto più saremo incoraggiati se a volte portiamo le conseguenze dei nostri sbagli solo dopo molti errori. Prendiamo ad esempio la guida della macchina. Nessuno osserva nella sua totalità il regolamento del codice stradale, soprattutto quando si tratta di rispettare il limite dei 50 km l'ora nei centri abitati. Se poi vi sono dei cartelli dove il limite di velocità è ai 30, personalmente faccio un sorrisino per un divieto così formale. Arriva poi il giorno in cui un vigile ci coglie in flagrante e ci dà una multa per un'infrazione che potrebbe anche essere dubbia. Ecco che subito nascono in noi sentimenti avversi nei confronti della polizia stradale. Ma se con un atto di volontà indirizziamo i nostri pensieri alle tante volte in cui ci è andata bene e non siamo stati puniti per delle infrazioni commesse, in quel momento di apparente ingiustizia non potranno che nascere in noi dei sentimenti di gratitudine. La mansuetudine è una pianta molto rara nel giardino della nostra vita, ma essa può essere curata e nutrita mantenendo sempre una certa dose di obiettività e positività, soprattutto quando le situazioni sono negative. Mosè, l'uomo più mansueto della terra, perse la mansuetudine, ma non per questo perse la stima di uomo mansueto più di chiunque altro sulla faccia della terra. 3. Giosuè, l'uomo geloso di Dio che è diventato geloso di un uomo. L'uomo che ha calpestato le profonde orme di Mosè è stato certamente Giosuè. Giosuè si è sempre comportato con una santa gelosia di Dio. Eppure venne meno a questo obiettivo quando degli altri uomini parlarono da parte dell'Eterno. Udendoli, egli disse prontamente a Mosè: «Mosè, signor mio, falli smettere». Ma Mosè gli rispose: «Sei forse geloso per me, o fossero tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse l'Eterno mettere il suo spirito su di loro». Numeri 11.2-8.29. Giosuè vedeva in Mosè l'uomo di Dio ideale. Alla vista di altri che ne possedevano lo stesso carisma, nacque in lui una gelosia malsana. Com'è facile trasportare i nostri sentimenti nei confronti di Dio sugli uomini? A volte si pensa di compiere un santo atto di gelosia nell'impedire ad altri di lavorare per Dio. Ma spesso, in realtà, tali azioni non sono altro che rivendicazioni personali, o come nel caso di Giosuè, un attaccamento morboso nei confronti di una certa opera o persona. L'errore del grande condottiero Giosuè ci avverte del grande pericolo di pretendere che le cose debbano andare sempre secondo il nostro punto di vista. I nostri ideali non sono sempre gli ideali di Dio, e questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Abbiamo tutti, per esempio, la nostra opinione su chi sia un uomo di Dio. Se un uomo fa una tal cosa o si comporta in modo particolare, se è un certo tipo di persona, allora per noi è un uomo di Dio. Ognuno di noi ha un modello di uomo di Dio in base alla propria immaginazione. E se un uomo arriva vicino a quel modello immaginato, per noi è un uomo di Dio. Per Giosuè l'uomo di Dio era certamente colui che era stato alla presenza di Dio. Era uno che poteva compiere grandi cose come l'aver diviso le acque. Perciò, quando dei semplici uomini profetizzarono, nacque in lui una gelosia negativa nei confronti di chi egli riteneva essere il vero uomo di Dio. La gelosia nel campo di Dio ha diviso più di una volta la tunica di Cristo, tanto è vero che fin dai tempi dell'Apostolo Paolo vi erano persone che predicavano il Vangelo per invidia. La gelosia fa parte dell'amore perché si tratta di desiderare di preservare il bene di ciò che si ama, e verso Dio questo è l'ideale. Ma quando questa gelosia è posta nei confronti dell'uomo, vi è il costante pericolo di volere un bene conforme al nostro ideale umano, e questo, 9 volte su 10, è sbagliato. 4. Samuele, l'uomo che sapeva ascoltare la voce di Dio ma che ha guardato l'apparenza. Samuele aveva ricevuto una chiamata particolare da parte di Dio fin da bambino. Egli ha udito direttamente la voce dell'Eterno Dio, e da quel giorno è sempre stato attento alla sua voce. Quando fu riconosciuto dal popolo come profeta unsere Saul, ma in seguito Saul non fu ubbidiente. L'Eterno aveva ordinato a Saul di distruggere interamente una comunità come atto di punizione, senza lasciare vivo neppure un animale, ma Saul e i suoi condottieri lasciarono in vita i migliori capi del bestiame, e Samuele con il suo acume spirituale rispose: «Gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come il culto agli idoli e agli dei domestici. Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re». 1 Samuele 15.2-23. Samuele fece notare a Saul quello che ancora oggi, dopo migliaia di anni, molti non hanno compreso, e cioè che il volere di Dio è che si ubbidisca al suo volere e non che si compiano atti religiosi. Samuele era un uomo che sapeva andare direttamente alla verità, eppure, quando fu mandato ad ungere un altro re, del quale non conosceva né il nome né la persona, guardò all'apparenza. Infatti, quando un uomo di nome Isai portò i suoi figli dal profeta, leggiamo quanto segue. Quando essi giunsero, egli posò lo sguardo su Eliab e disse: «Certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui». Ma l'Eterno disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore». 1 Samuele 15, 6-7. Com'è facile cadere in giudizi basati sull'apparenza? L'occhio umano è un grande dono per saper discernere le cose. Quando lavoravo ero in grado di discernere 0,5 millimetro di differenza, sia come spessore, sia quando l'oggetto non era perfettamente allineato. Ma quando si entra nel campo morale le cose cambiano. Quanti errori di valutazione morale si compiono sulle persone. Spesso, consci di questa nostra mancanza, siamo tentati a non compiere più valutazioni morali. Ma se è venuto meno in questo un uomo come Samuele, possiamo essere incoraggiati a procedere e confidare in Dio che è più grande dei nostri errori. Se l'Eterno ha corretto, Samuele è in grado di correggere anche noi. 5. Giona. l'uomo razionale che si è comportato da irrazionale. Il profeta Giona ricevette la chiamata da parte dell'Eterno per andare a predicare in una città, ma con una fredda razionalità intraprese un viaggio verso una città geograficamente opposta, pagò il biglietto e salì a bordo, ma l'Eterno lo fermò, fu inghiottito da un pesce grosso e non da una balena. Fu rigettato dal pesce sulla riva e in seguito andò nella città a predicare che entro 40 giorni sarebbe stata distrutta. Gli abitanti della città dipentirono dei loro peccati e l'Eterno cambiò idea non distruggendo quella popolazione. Il seguito del racconto dice: ma questo dispiacque molto a Giona, che si adirò. Così egli pregò l'Eterno, dicendo: Deh, o Eterno, non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarshish, perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Or dunque, o Eterno, ti prego, toglimi la vita, perché per me è meglio morire che vivere. Ma l'Eterno gli disse: ti pare giusto adirarti così? Giona 4.14. Anche Mosè si era adirato in una circostanza, ma il suo errore era stato incontrollato. L'ira di Giona, però, era dettata da una logica razionale. Cosa serve andare a predicare il giudizio dell'Eterno quando il mio Dio è una divinità di misericordia? Se Dio cambia idea e usa misericordia, tutto quello che dirò sarà inutile. Questi pensieri avevano indotto Giona a mostrarsi reticente di fronte alla missione affidatagli, ed ora che il giudizio di Dio non sarebbe avvenuto, il profeta riteneva giusto irritarsi. Dunque, lo sdegno di Giona era uno sdegno umanamente ragionato, ma dato che i ragionamenti dell'uomo sono insensati davanti a Dio, il profeta aveva un'ira irrazionale. Per quanto ritenesse giusto adirarsi, Giona era nel torto anche razionalmente, perché l'Eterno Dio ha il diritto di usare misericordia quando vuole e soprattutto quando uno si umilia. Quante volte abbiamo agito in modo irrazionale? Difficile dirlo, perché in quel momento pensavamo di essere razionali, e l'errore del profeta Giona ci porta a considerare quanta pazienza Dio abbia verso tutti gli uomini, principalmente nei confronti dei suoi figli. Giona si è irritato e l'Eterno non l'ha penalizzato come ha fatto con Mosè, ma la sua domanda nei momenti della nostra irritazione è sempre presente per tutti. Ti pare giusto adirati così? Sei Giovanni, l'uomo pieno di amore che mancò di amore. Gesù aveva scelto 12 uomini perché andassero con lui e imparassero a predicare il messaggio relativo al regno dei cieli, uomini che avevano una spiccata diversità di carattere. Nel gruppo dei 12 vi erano 2 uomini dal temperamento impulsivo, Pietro, un sanguigno, e il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, una testa calda tanto da essere soprannominato figlio del tuono. Ma Giovanni era anche tendente alla benignità, tanto che in seguito verrà definito l'apostolo dell'amore. Eppure, l'apostolo dell'amore ha mancato proprio in questo. Nel suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, Gesù inviò dei messaggeri in un villaggio di samaritani davanti a sé per preparargli un alloggio, ma essi non erano disposti ad accoglierlo. L'Evangelista Luca riporta la seguente conversazione. Visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Poi andarono in un altro villaggio. 9.5456. L'esplosione di sdegno e di vendetta da parte dei fratelli Giacomo e Giovanni sembra proprio ingiustificata, ma se ci mostriamo comprensivi considerando il contesto storico, la reazione dei fratelli ci diventerà giustificabile. Giacomo e Giovanni erano con Pietro parte del gruppo più intimo di Gesù, erano coloro che avevano visto sul monte Tabor la gloria di Cristo. Secondo alcuni studiosi, essi sarebbero anche cugini di Gesù. Nel vedere il loro maestro rifiutato e disprezzato, Il legame che lo univa a lui produsse in Giovanni una reazione negativa sfociata nel desiderio di vendetta. La reazione di Giovanni poteva adombrare per sempre la sua caratteristica affettuosità, da lui ampiamente dimostrata anche in seguito nelle sue lettere. Ma meno, come si dice, meno anche i più forti cadono. Il discepolo Giovanni voleva imitare il grande profeta Elia, senza rendersi conto che non siamo chiamati ad imitare le gesta dei grandi uomini di Dio, ma la loro fede. Perciò chiese di sterminare gli oppositori. L'errore di Giovanni consola chiunque ama Gesù Cristo, perché il gesto inconsulto non gli ha impedito di rimanere il discepolo che Gesù amava. Così è anche per tutti i figli di Dio. L'errore umano non invalida l'amore di Dio in Cristo. 7. Sansone, l'uomo forte che si comportò da debole. Il solo nome Sansone riporta alla nostra memoria un uomo dotato di straordinaria forza, ma anche la sua tragica fine. La parola di Dio ci riporta vari errori di Sansone, ma in sintesi quest'uomo così forte sbagliò in una sola cosa: lasciarsi condizionare dalle donne. Lo si nota in modo particolare nella relazione con l'ultima delle sue donne. Dopo questo Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Delila. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e le dissero: «Seducilo e scopri dove risiede la sua grande forza e come riuscire a sopraffarlo per poterlo legare e domare». Ora, poiché essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo sollecitava con insistenza, egli ne fu irritato a morte. E le aperse tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo a Dio, dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza se ne andrebbe e diventerei debole, e sarei come qualsiasi altro uomo». Giudici 16.4-17. Al mio paese si dice che al cuore e alla pancia non si comanda, e dato che questo detto è in gran parte vero, la saggezza sta nell'impegnare la mente prima di impegnare il cuore. Sansone era dotato di una grande forza fisica, ma era molto debole altrove. Lo dimostrano le sue scelte di donne pagane, scelte che non tenevano conto della morale dettata dal Dio di Israele. Inoltre Sansone mostra anche di essere poco prudente, in quanto ha aperto il suo cuore a chi non doveva. Tutti abbiamo un intenso bisogno di aprirci totalmente a qualcuno meno. Per questa ragione il cattolicesimo va avanti con la confessione auricolare, nonostante molti fedeli siano contrari a tale pratica. Meno, ma la saggezza consiste nell'aprire il proprio cuore al partner con il quale si condivide la vita, o a qualcuno che sia parte della nostra vita. Sansone si confidò totalmente, ma sbagliando di grosso con la persona e il momento. Anche il credente ha ricevuto da Dio la forza necessaria per vincere ogni battaglia. Forza, questa più forte di quella di Sansone, ma a volte è debole in certi settori. Se Sansone, nonostante tutto, è stato elencato nella lista degli uomini di fede, questo ci incoraggia a continuare a combattere per la fede, anche se nel percorso realizziamo alcune sconfitte, sconfitte che del resto non sono mai totali, ma parziali, perché Gesù ha vinto. 8. Davide, l'uomo umile che si comportò da orgoglioso. Anche il re Davide, come tutti i grandi uomini di Dio, commise degli errori, fra questi però uno è del tutto inaspettato. Per molti il nome Davide è legato ad uno speciale omicidio e adulterio. Ma questi peccati non sono poi così particolari per un regnante che aveva totale diritto sulla vita dei suoi sudditi. Invero, a suscitare meraviglia riguardo a un uomo come Davide, che in tutta la sua vita si è sempre comportato da umile e che si è arrivato ad essere orgoglioso. Troviamo scritto nel libro delle 1 Cronache l'episodio al riguardo. Or Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Così Davide disse a Joab e ai capi del popolo: «Andate, fate il censimento degli israeliti in tutto il territorio. Quindi presentatemi il rapporto perché conosca il loro numero». Joab rispose: «L'Eterno moltiplichi il suo popolo 100 volte tanto. Ma, o re mio signore, non sono forse tutti servi del mio signore? Perché il mio signore richiede questo? Perché rendere Israele colpevole? ma la richiesta del re prevalse contro Joab, perciò Joab partì, percorse tutto Israele e tornò quindi a Gerusalemme. 1 Cronache 21, 1 a 4. La divinità di Israele aveva espressamente vietato al re di fare il censimento del popolo per metterne a prova la fede. Infatti Giaoeca aveva promesso di moltiplicare la popolazione e il re non doveva mettere in dubbio l'adempimento della promessa. Invece Davide, in un momento di debolezza, dettato dall'orgoglio, costrinse il capo dell'esercito Joab a censire il popolo nonostante questi non volesse assolutamente ubbidire all'ordine regale. L'atto di orgoglio di Davide ebbe come conseguenza la morte di tante persone. Quest'episodio ci porta ad avere un cuore riconoscente per tutte le volte che siamo orgogliosi, ma Dio non permette che ne portiamo in prima persona le conseguenze. L'orgoglio è molto probabilmente il peccato che Dio tollera meno facilmente perché esso scaturisce direttamente dall'inferno, quando oltre a noi anche coloro che ci sono vicini e che amiamo non ne portano le conseguenze, dobbiamo avere un cuore doppiamente riconoscente e lodare e ringraziare Gesù Cristo perché non siamo trattati come Dio ha trattato il re Davide. 9. Pietro, l'uomo con il senso delle cose di Dio che ebbe il senso delle cose degli uomini. L'apostolo Pietro, spesso ricordato per aver rinnegato Gesù e per il suo temperamento burrascoso, che gli faceva fare delle figuracce, ma non possiamo dimenticare che a volte era anche colui che aveva il senso delle cose di Dio. Infatti, alla famosa domanda di Gesù in merito a chi pensassero chi egli fosse, Pietro rispose che era il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E vero che era stato lo Spirito di Dio a rivelargli questo, ma in quel momento Pietro aveva il senso delle cose di Dio. Eppure, subito dopo questo episodio, Pietro commette un errore dettato dal suo discernimento e sentimentalismo, provocato dalle parole proferite da Gesù, il suo maestro, in merito alla sua grande e imminente sofferenza causata dai capi sacerdoti che lo avrebbero fatto uccidere, sebbene infine egli sarebbe stato risuscitato. Davanti a una tale predizione Pietro reagisce. L'Evangelista Matteo descrive così l'episodio. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: «Signore, Dio te ne liberi. Questo non ti avverrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Matteo 16.22.23. Questo episodio è di grande incoraggiamento perché ci ricorda che anche i grandi uomini di Dio hanno le loro lacune nelle valutazioni in merito alle cose di Dio. Lutero, per esempio, giudicò la lettera di Giacomo una lettera di paglia perché in confronto alle altre lettere del Nuovo Testamento non rifletteva la caratteristica del Vangelo. Mentre molti di coloro che sono ritenuti i padri della Chiesa, come Agostino, Tertulliano, Origene, benché dobbiamo essere grati per le loro riflessioni in merito alla parola di Dio, hanno avuto anche il senso delle cose degli uomini. E noi quante volte abbiamo avuto il senso delle cose di Dio e poi anche subito dopo ci siamo fatti scappare delle riflessioni che erano puramente umane. E molto importante ricordare questo episodio di Pietro per non avere una valutazione di noi stessi superiore a quello che siamo e non fare mai e poi mai l'errore di accettare a scatola chiusa ogni dottrina e riflessione in merito a Dio. 10. Paolo, l'uomo dalla formidabile memoria che dimentica. Per quanto posso aver compreso, la parola di Dio non riporta nessun errore di Paolo, ma egli stesso, nella prima lettera ai Corinzi, accenna ad un episodio della sua vita nel quale indirettamente rivela un suo errore. L'episodio è accennato nel seguente brano della lettera. «Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Cloè, che vi sono contese fra voi. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa ed io di Cristo». Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio, perché nessuno dica che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. 1 Corinzi 1.1116. L'Apostolo stava parlando del battesimo e ricorda agli abitanti di Corinto che non aveva battezzato nessuno, se non Crispo e Gaio. Poi ad un tratto gli viene in mente che aveva battezzato anche la famiglia di Stefana e, in considerazione del proprio sbaglio, in seguito si mostra più cauto nelle sue affermazioni, ammettendo di non ricordarsi di aver battezzato qualcun altro. Dunque Paolo aveva riportato dei fatti in modo impreciso, un errore che poteva anche discreditare la sua buona memoria. La smemoratezza di Paolo ci è di grande consolazione perché quando dimentichiamo certi avvenimenti o li ricordiamo in parte, siamo in buona compagnia, una compagnia composta anche di uomini di Dio. E questo non è poco, soprattutto perché ci rammenta del continuo che tutti, ma proprio tutti, siamo dei vasi di terra fragili e solo la grazia di Dio ci fa essere quello che siamo. Così, nonostante tutto, nonostante siamo tutti sottoposti alle stesse passioni, Giacomo 5.17, Dio può compiere cose grandi tramite me e te, come le compì con Abramo, con Mosè, Giosuè, Samuele, Giona, Giovanni, Sansone, Davide, Pietro e Paolo. E l'elenco potrebbe andare all'infinito. Ma l'importante è che alla fine possiamo far parte della grande schiera degli uomini di Dio che commisero degli errori. Marzo 2007. Ellero.